Savonarola, il frate che sbaragliò Firenze. Prose scelte. Un programma in collaborazione con Davide e Giorgio e Radio Big World. Savonarola, prose pubblicate 150 anni fa da Pasquale Villari in diocesi di Firenze e lette oggi da me in diocesi di Fiesole. D'altra parte, quando Monte Morella il cappello e Fiesole la cappa, correte pianigiani, ecco l'acqua. Serio. Capitolo 8. La stangata. Il popolo s'era andato sempre più affollando in San Marco e la chiesa non era più capace di contenerne la moltitudine, onde nella quaresima dell'anno 1491 il Savonarola predicò nel Duomo e le mura di Santa Maria del Fiore echeggiarono per la prima volta della sua voce. Da quel momento egli parve divenuto signore del Pergamo, padrone del popolo che ogni giorno crescendo di numero raddoppiava d'entusiasmo verso il suo predicatore. Quelle immagini dal frate descritte rapivano le fantasie della moltitudine, quelle minacce di futuri flagelli avevano una forza magica sull'animo d'ognuno, perché pareva veramente che tutti fossero pieni di sinistri presentimenti. Ma questo appunto cominciava a dispiacere fortemente a Lorenzo dei Medici e faceva nei suoi amici nascere una certa opposizione contro il Savonarola, al quale furono un giorno mandati 5 dei principali cittadini di Firenze, perché, mettendogli in vista i pericoli che gli faceva correre a sé e al convento, lo consigliassero a moderarsi. Il Savonarola interruppe ben presto il loro discorso dicendo: «Vedo che voi non venite per vostro consiglio, ma siete mandati da Lorenzo. Ditegli che s'apparecchi a far penitenza dei suoi peccati, perché il Signore non risparmia nessuno e non ha paura dei principi della terra». Il frate era fierissimo della sua indipendenza ecclesiastica e voleva smettere sin dal principio il costume invalso in San Marco di piegarsi e prostrarsi continuamente innanzi ai medici. E quando gli fu da quei medesimi cittadini fatto osservare che egli poteva essere esiliato, rispose: «Io non temo i vostri esili, perché questa vostra città è come un grano di lente sulla terra. Ma sebbene io sia forestiero e Lorenzo cittadino ed il primo della città, io debbo restarvi ed egli dovrà partirsene». Aggiungendo di poi parole tali sulle condizioni di Firenze che quei cittadini restarono maravigliati dalla sua intelligenza nelle cose di Stato. In quel tempo medesimo, trovandosi nella sagrestia di San Marco in presenza di più persone, affermò che le cose d'Italia volevano mutar presto e che il Magnifico, il Papa e il Re di Napoli si avvicinavano alla morte. Il malumore dei medici ne cresceva perciò a tal segno che il Savonarola tornò più volte sopra se stesso a considerare questo mormorare continuo, questa contraddizione sempre crescente di una parte piccola ma potente dei cittadini, ed avrebbe voluto, per qualche tempo almeno, restringersi solo ai precetti di morale e di religione, ma nel fatto trovò che un tal cambiamento era per lui assai più facile desiderarlo che metterlo in pratica. Nel luglio di quel medesimo anno 1491 veniva eletto priore di San Marco e la nuova carica, ponendolo più in vista ed in maggior grado, faceva crescere la sua indipendenza. Fin dal principio egli ricusò di piegarsi all'abuso introdotto nel convento, che il nuovo priore cioè andasse a portare ossequio ed obbedienza al Magnifico. «Io riconosco», egli disse, «la mia elezione solamente da Dio e da Lui porterò obbedienza». Lorenzo dal suo lato se ne doleva dicendo: «Voi vedete, un forestiere è venuto in casa mia e non si degna neppure di visitarmi». Pure, non volendosi mettere in guerra col priore d'un convento né far troppo caso d'un frate, cercò di conciliarselo con la via della dolcezza. Andò parecchie volte a sentire la messa in San Marco, trattenendosi di poi a passeggiare nell'orto, senza però che il Savonarola volesse per questo lasciare i suoi studi e venire a fargli compagnia. Egli giudicava severamente il carattere di Lorenzo, sapeva tutto il danno che esso aveva fatto alla morale pubblica, non voleva perciò avvicinarsi ad un tiranno in cui vedeva non solo il nemico e distruttore della libertà, ma ancora l'ostacolo maggiore a migliorare i costumi del popolo. Vedendo che queste vie non riuscivano, Lorenzo cominciò a mandare al convento dei ricchi donativi e delle larghe limosine, ma ciò doveva naturalmente accrescere il disprezzo che il Savonarola aveva già concepito per il carattere morale di lui, e sul Pergamo egli vi fece infatti qualche sdegnosa allusione, dicendo che queste cose lo rendevano sempre più fermo nei suoi propositi. Non andò guari che trovò nella cassetta delle limosine certa quantità di monete d'oro, le quali, non potendo essere venute da altri che da Lorenzo, egli mandò ai buoni uomini di San Martino perché le dispensassero ai poveri, dicendo che ai bisogni del convento bastava il rame e l'argento. E così, osserva il Burlamacchi, Lorenzo si persuase finalmente che questo non era terreno da piantar vigne. Il Magnifico non era però uomo da cedere così presto, onde, per abbassare il crescente predominio del nuovo oratore sul popolo, egli incitò il Gennazzano a riprendere le sue prediche. Questo frate aveva tutto l'impeto, la malignità e l'ipocrisia dei pedanti. Sino ad ora egli si era congratulato col Savonarola del successo da lui ottenuto, ma non appena ebbe da Lorenzo l'incarico di combatterlo, lo accettò subito baldanzosamente. Il giorno dell'ascensione doveva predicare su quel passo della Bibbia: non es vestrum, non se tempora vel momenta. Firenze era piena di questa voce e la folla correva numerosissima alla predica del Gennazzano, ma egli si lasciò tradire dal suo furore, incominciò a pronunziare accuse d'ogni sorta contro il Savonarola, chiamandolo vano e falso profeta, seminatore di scandali e disordini nel popolo, ed arrivò a tanta insolenza e bassezza di linguaggio da disgustare assai l'uditorio, in modo che quel giorno perdette della sua reputazione più che non s'era con le fatiche di molti anni acquistato. E così quello che, secondo i disegni di Lorenzo, doveva essere la disfatta fu invece il trionfo del Savonarola, il quale aveva quel giorno predicato sul medesimo testo, interpretandolo tutto a favore della sua dottrina. E restò di poi affatto padrone del campo, perché il Gennazzano non ardì continuare le sue prediche. Questi fece vista di prendere la cosa con indifferenza, invitò il Savonarola al suo monastero, celebrarono insieme una messa solenne e si scambiarono ogni sorta di cortesie, ma il francescano aveva troppo vivamente sentito nell'anima l'umiliazione ricevuta, essere tenuto il primo predicatore d'Italia, aver quasi annientato il Savonarola nella sua prima venuta in Firenze e trovarsi ora vinto e disfatto innanzi a tutti era cosa che egli non sapeva tollerare senza rancore. Da quel momento infatti covò nel petto un odio profondo contro il Savonarola, gli giurò un'eterna vendetta, né si stancò mai di suscitargli nuovi pericoli e nuovi nemici, sino a che riuscì veramente ad essere uno dei principali autori della sua rovina. Lorenzo allora, vedendo assolutamente fallito il suo intento, sentendosi già preso da quella infermità che doveva poi condurlo alla tomba, e stanco di lottare contro un uomo che, suo malgrado, cominciava ogni giorno a stimare di più, lo lasciò ormai predicare liberamente.